Nuovamente in diretta su Radio Onda Rossa 87.900, come recita lo spot. Ci occupiamo, come detto a margine, in chiusura della rassegna stampa, di alcuni articoli che sono usciti oggi sulla carta stampata a proposito di web, social media, insomma nuovi media digitali. A parte l'articolo, secondo me anche abbastanza brutto, di Enrico Franceschini sulle pagine della Repubblica, dimmi cosa cerchi e ti dirò come stai, l'indice della felicità creato da Google, pensate un po', il grafico compilato dal Washington Post che analizza le statistiche di Google Trends, il sito del motore di ricerca che individua le tendenze online. Quindi siamo arrivati ormai al paradosso che la nostra felicità, le nostre ansie, i nostri dolori vengono mappati digitalmente, appunto, da un colosso capitalistico quale Google. Questo è appunto un articolo uscito sulla Repubblica di oggi, pagina 27. Mentre poi andiamo sulla Stampa, un servizio a cura di Marini dell'Università di Padova e di Rizzato, richiamato anche in prima pagina col titolo "Così la rete confonde lavoro e tempo libero, gli italiani e le nuove tecnologie", che nel titolo sembra un po' dire, insomma, questi italiani stanno un po' troppo al telefono, quindi lavorano di meno, un po' questo è il succo. Poi in realtà nell'articolo di Daniele Marini dell'Università di Padova si fa un po' di sociologismo, snocciolando alcuni dati, soprattutto dell'indagine LAST, Laboratorio sulla Società e il Territorio, realizzata da Community Media Research in collaborazione con Intesa San Paolo per appunto il quotidiano La Stampa. E si scrive che le nostre comunicazioni transitano ormai in misura crescente attraverso internet, e poi internet sarebbe più giusto dire la rete o comunque il web, perché il web non è soltanto internet, ci sono anche poi altri motori di ricerca, mail, WhatsApp, social network. Il 43,1% della popolazione si connette alla rete quotidianamente per lavoro. Gli scollegati invece, cioè coloro che non si connettono praticamente mai, sono pochissimi, anche se una percentuale non trascurabile, il 17,8%, che non si collegano né per motivi professionali né personali, e questo però si verifica in misura maggiore per la componente femminile, quindi c'è un dato di genere da analizzare. Gli over 65 anni, le casalinghe, chi ha un basso titolo di studio risiede nel mezzogiorno, e qui ritorna l'annosa questione del mezzogiorno d'Italia, che anche in fatto di strutture evidentemente per la rete non è a questo punto adeguata. Questo per quanto riguarda La Stampa, ma ben più interessanti sono, da una parte, l'editoriale di Francesco Grillo, citato nella rassegna stampa di questa mattina sulle pagine del Messaggero, che si occupa dei giganti digitali. Privacy e fisco, nodi irrisolti del web, è questo il titolo dell'editoriale di Grillo, che da una parte apre, esordisce il suo editoriale dicendo che, tra l'altro citando alcune parole di un discorso di John Sherman, un senatore americano del 1911, un discorso contro i monopoli che dominavano il settore petrolifero americano, e quindi da una parte si scaglia contro i monopoli facendo questa citazione, poi però scrive: il problema che il nuovo mondo di internet pone non è dunque tecnicamente quello del monopolio. Quindi già in questo vedo una piccola contraddizione, quando poi in realtà i monopoli nella rete ci sono. Pensiamo ad Amazon, pensiamo a Facebook, pensiamo a Twitter, pensiamo a Google, ovviamente era scontato, e a molti altri che sono comunque aziende che fatturano tantissimo. Grillo poi scrive, si riallaccia a un editoriale uscito sull'Economist di questa settimana, che tra l'altro ha dovuto precisare che nel consiglio di amministrazione dell'Economist c'è anche l'amministratore delegato di Google, quindi pensate anche agli intrecci del capitale internazionale. In ogni caso, l'editoriale dell'Economist arriva alla conclusione che non c'è ancora una ricetta magica per risolvere quello che è il più grande dei problemi dei nostri tempi, che è cioè quello della tassazione di questi giganti del web. Il più grande dei problemi, perché la virtualizzazione dell'economia, passaggio ulteriore rispetto alla sua globalizzazione, si potrebbe anche dire ristrutturazione del capitale sostanzialmente, rischia di rendere complicate alcune delle funzioni minime che giustificano l'esistenza di uno Stato e di creare uno sbilanciamento tra mercati e governi che farà male ad entrambi. Continua Grillo, sembra che il mondo digitale abbia una tendenza molto più spiccata di quello fisico alla creazione di monopoli per effetto della legge dei network. A parità di altre condizioni, il valore di aderire ad una rete aumenta quanto più ne aumentano il numero degli utenti. Il ragionamento si rovescia se invece di parlare di vendite utili osserviamo la quotazione nei mercati azionari. Le tre stelle di San Francisco valgono quasi 600 miliardi di dollari e impiegano complessivamente 65.000 dipendenti, e qui Grillo fa un paragone con la Fiat, che meglio FCA, Fiat Chrysler, che ne vale 14 di miliardi di euro e impone, diciamo, ha un numero di dipendenti di molto più alto, tre volte più elevato, 220.000. Ma questo ha senso fino a un certo punto, perché io credo che poi la ristrutturazione del capitale vada anche in una direzione diversa, ovvero quello di ammortizzare e di diminuire la forza lavoro per sfruttarla sempre di più. Non a caso questi grandi colossi hanno pochissimi impiegati, pensiamo ad Amazon, che in cui c'è un livello di sindacalizzazione pressoché assente, quindi un livello di sfruttamento e di ricatto maggiore nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. Tra l'altro, altro dato di genere da inserire e analizzare, per quanto riguarda i colossi della Silicon Valley, la maggior parte, parliamo di percentuali altissime, 80-90% dei lavoratori è insomma lavoratori uomini, non donne. E questo è, secondo me, un dato che Grillo non prende in considerazione, ovvero quello della ristrutturazione del capitale, soprattutto in una direzione dell'economia digitale. E quindi il problema di Grillo non sembra essere quello dei monopoli, come già detto, ma quello della protezione dei dati personali, che ovviamente è anche un altro grande problema. Ma insomma, prima attacca tutto un pippotto sui monopoli, poi dice no, vabbè, i monopoli non sono il problema. Un editoriale tra l'altro molto lungo, che impegna quasi una pagina dell'edizione del Messaggero nazionale di oggi. Ma un altro articolo che vi volevo segnalare è estrapolato dall'edizione del Sole 24 Ore di oggi, pagina 11 per la precisione, per chi poi lo volesse visionare. Acquisti e lavoro nella rete, da Facebook a Twitter, passando per Pinterest e il baratto online, le nuove possibilità di scambio economico, di Isabella Della Valle, che riporta un altro report, diciamo un'altra indagine, Social Digital e Mobile in Europa nel 2014, questo è il report citato. Secondo questa analisi, la penetrazione dei social network in Italia, tenendo conto soltanto degli utenti attivi, è del 42%, contro una media europea del 40%, ma fa notare Della Valle un dato interessante se si considera che l'uso di internet in Italia è più basso, cioè del 58%, contro una media europea del 68%. Questo è un dato su cui eventualmente poi riflettere. Ma, scrive ancora Della Valle, i vantaggi possono essere anche di carattere economico per quanto riguarda i social media. È ovvio, certo, non ci stupisce, siamo sulle pagine del Sole 24 Ore, insomma il punto di vista ovviamente di classe è quello dei padroni, del patronato, dei capitalisti. Su Facebook e Pinterest, per esempio, è possibile creare delle vetrine per vendere direttamente i propri prodotti. Esistono poi gli strumenti di social marketing con cui le società avviano campagne sui social a costi minori e con maggiore efficacia nel raggiungere i target desiderati. E in effetti c'è un proliferare di corsi di social marketing, corsi di economici di social marketing. Il vecchio meccanismo di ricerca di informazione autorevoli sulla stampa e altri media tradizionali si è semplicemente spostato sui social network, e questo è un dato di cui anche noi come radio, come media, dobbiamo fare i conti. La rassegna stampa la facciamo, ma sappiamo poi anche quanto è importante la circolazione, i flussi di notizie all'interno del web. E il Sole 24 Ore spinge poi anche su una moneta virtuale costituita da crediti, il famoso discorso dei bitcoin, della moneta digitale. Poi ancora, sempre sulla stessa pagina, Gabriele Petrucciani scrive: i network cruciali anche per il risparmio gestito, sempre sui social media. La svolta nel 2020, quando le nuove generazioni avranno l'età giusta per investire. Il report, lo stesso che abbiamo già citato, suggerisce infatti gli asset manager che non presenti in alcuna rete sociale o che sono poco attivi, di attivare immediatamente dei piani di comunicazione social già nei prossimi 18 mesi, così da farsi trovare pronti per il 2020. Questo è un po' quello che si muove nell'economia digitale dei grandi colossi, in cui poi ruota attorno tutto l'indotto, ossia quello di una fidelizzazione, di una, diciamolo anche, di una schedatura pressoché totale dell'utente sulle piattaforme informatiche. E insomma, questo era quello che un po' volevamo rilevare dalle pagine dei giornali. Sono ovviamente argomenti di cui sul web si trovano tanti riferimenti, tanti articoli, ma è significativo che soltanto in una giornata come oggi, insomma, ci siano diversi articoli sullo stesso argomento, che trattino però il web sostanzialmente nello stesso modo, ovvero come grande mondo capitalistico in cui appunto mettere appunto dei profitti e appunto sfruttare quelle che poi sono le nostre vite sempre più mercificate, che diventano dati. A questo punto sono le 11:11, io mi fermo qui con questa parte redazionale di Radio Onda Rossa. E continuerà la mattinata con un altro approfondimento. Vedo qui la redattrice che già si prepara con la varia carta stampata. Parleremo anche con una corrispondenza di quello che è successo ieri alla Scala di Milano, già ampiamente trattato all'interno della rassegna stampa, e con le varie citazioni da vari articoli dei quotidiani di oggi. Ma avremo anche una corrispondenza dai compagni di Milano, e poi ci occuperemo anche ancora di Roma e mafia a Roma. Grazie ancora per l'ascolto, rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questi sono gli 87.900 in modulazione frequenza. Un caloroso saluto a chi è privato della propria libertà.